come di Dimo Chierico. Vivo nel disincanto, scrivo con animo affranto, animo ogni critico impianto, pessimistico, persemistico, ma intanto il cardio, un giorno caparbio. Ora è viscido ed infranto, apatico e scettico, nel rimpianto canto, un asfittico, non ritorno, non dico adorno e nemmeno da montale, e monto un fanale sul percorso vitale, quasi sotto accorto d'essere accorto di Deliane, nemiche storiche foscoliane, ipotesi intesi, leopardiane, romantiche tesi, catane distrutte tutte il letame, sulle maniche sangue in mane, segni stesi sulle natiche. Si costituisce un primo stadio dove l'animo è in primo grado, si agita la coscienza, si monitora la propria essenza, si logora il nido nel quale ti ha messo, si all'inizio della conoscenza, il nocciolo è non abbattersi contro gli ostacoli della genesi. E non son preda sotto verga deterministica come verga, che stile dalla piaga che dilaga e vaga nell'anima mistica, esamina e s'anima il gracile nerva, preda della bramosia che a causa di mutazioni subì mutazioni sotto la sua tirannia, elezioni, nuove concezioni, concetti speranzosi ma poeti eretici, alla messa lanza al ballan nella libidine, turpitudine che intorpidisce l'iride, indime come l'istrice, mi distacco e attacco ogni falso indice in alto e catapulto il pollice in basso, ogni sasso è un iceberg del mio io, son Eisenhower, Hermanes insegna, Seneca insegna, un'analisi degna della propria caverna, non essere preda dei momenti, fai lo stratega tra i pretendenti, conquista veghe e discendenti, sta in congrega dei discenti, si cerca di saltare nel nuovo orbitale, fa male cambiare, amarsi e costruirsi il progetto per la nuova catarsi, arsi nel mondo buio, profondo, scuro, ancora impuro, la corazza s'acquisterà, con fatica ci si muoverà. Dopo un processo di sussunzione vi è la concretizzazione dell'assenso, sull'appurazione di quanto detto, sono eretto sul tetto della maturazione, stento a credere a posizioni pessimistiche, protagonistiche, esibizionistiche, ci vuol consapevolezza dopo crisi mistiche che si basano sull'essenza e non sulla fierezza di proprietà fisiche, su facoltà supero mistiche che pongono l'amicizia relazionale in posizione verticale, si ricade nell'incertezza e si spezza l'azione pattizia di beneficio, e poi il bene è vizio visto da codesta concezione, si resta nel limbo per via della trasvalutazione essenziale, distinto dall'offuscamento niceano. Offuscamento niceano. Il momento è buono per il cambiamento, una ricostruzione per nuove fondamenta, il compendio si prefigge codesto impegno ed l'effigie, servi con arringhe di bene le tue tinte contro quelle cinghie con cui t'abbinghi alla tiuche, cerca denti stretti di colmare le buche.